la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, buon inizio settimana in questo lunedì 10 di aprile, sono le 16:30 primi e 31 secondi, grazie come sempre per l'ascolto, in diretta in podcast qui la versione di Oscar, l'indirizzo della versione di Oscar è @radio24.it. Vi dico subito l'argomento della puntata, trae spunto da due pagine che trovate oggi su il Corriere Economia, il supplemento da qualche settimana rimesso a nuovo di economia che è allegato tutti i lunedì al Corriere della Sera, come Affari e Finanza lo è per Repubblica, e sono due pagine piene di dati su cui riflettere al di là del pregiudizio. Vi dico l'argomento, infatti, sono dati per riflettere a mente aperta su un tema che apparentemente non può che destare consenso, ma i numeri invece lo smentiscono. Il tema è: nuovi sgravi al sud, nuova decontribuzione per il sud. Ecco, sapete che, per dirla in due parole, terminata dopo il decalage del 2016 la maxi decontribuzione ai nuovi contratti di lavoro che è stata varata con il Jobs Act, i cui effetti abbiamo più volte analizzato man mano che escono i dati sull'occupazione, l'incentivo per il 2017, l'incentivo all'occupazione resta per 530 milioni di euro per il sud, cioè prevede l'esonero contributivo totale fino a 8.060 euro l'anno, esattamente come era per il primo anno di decontribuzione nel 2015 per tutti i contratti, e va a quei datori di lavoro che privati che sono giovani disoccupati tra i 16 e i 24 anni, oppure disoccupati con almeno 25 anni, però che siano disoccupati da almeno 6 mesi, e poi le aziende che assumono con sede in Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Sardegna. Apparentemente, ovviamente, la reazione mainstream, quella dominante, è certo che sì, visto positivo, voglio dire, visto che tante volte ci avete spiegato che i gap di reddito pro capite, di PIL pro capite e di produttività e di occupazione tra sud e nord si sono tornati ad allargare negli anni di crisi, bisogna fare qualcosa. Però a quel punto subentra la domanda: che cosa ci dice l'esperienza storica di questo particolare strumento, cioè gli sgravi al sud? Dopo decenni e dopo diverse forme di applicazione nel tempo, ci dice che questo strumento, l'esperienza storica, ci dice che questo strumento ha funzionato, e quindi alla luce del passato è giusto insistere? Oppure, al contrario, se andiamo a vedere bene i dati, ebbene, i dati ci dicono che chiaramente non ha funzionato, e nel qual caso non è poi così corretto insistere, visto che abbiamo i dati di una serie storica sufficientemente lunga per riflettere. Ecco, questo per capire di che cosa parliamo. E il merito, naturalmente, del nostro ospite e di chi ha firmato l'articolo è ovviamente quello di essersi tirati giù i dati, di essere andato a vedere che cosa è successo, di aver visto quali sono gli effetti, per poi proporli come argomenti di riflessione. Concludo dicendo che queste riflessioni andrebbero fatte da parte della politica prima di decidere i provvedimenti, per ragionare sui costi-benefici delle misure che si adottano. Questo è un difetto della politica italiana, della politica in generale, ma della politica italiana in particolare, che le analisi costi-benefici delle misure macro non è abituata a farle. E non è abituata a farle nel senso che, non solo, ma questo capita, senza, non illudiamoci, in tutti i paesi in cui, come è ovvio, il ciclo elettorale fa guardare le forze politiche al consenso, alle attese di voto, ma anche perché nella nostra cultura istituzionale e amministrativa noi non ci siamo dati, la politica non si è data e nelle istituzioni non c'è la capacità di esercitare un'analisi critica terza e indipendente come passaggio necessario per consentire al Parlamento di esaminare appunto ciò che abbiamo imparato da misure analoghe nella storia precedente. Per esempio, nell'ordinamento americano, dove c'è un presidente con poteri sull'esecutivo molto forti, c'è pur tuttavia un Parlamento che lo bilancia con poteri altrettanto forti. E quando dico poteri altrettanto forti, c'è per esempio un ufficio terzo indipendente tecnico del Congresso, si chiama Congressional Budget Office, a cui spetta come compito istituzionale, indipendente dai democratici, dai repubblicani, dagli eletti, indipendente dall'esecutivo e dall'amministrazione presidenziale, c'è il compito non solo di fare il controcanto su tutte le misure del budget e anche di elaborare un budget patrimoniale pubblico, cioè che tiene conto degli impegni patrimoniali per il futuro al di là del bilancio di parte corrente, spesa corrente, investimenti anno per anno, ma è anche incaricato di approfondire quando arrivano misure care al governo e al presidente quali sono i loro costi e benefici alla luce di quello che abbiamo imparato nel tempo. Da noi una cosa simile non c'è, cioè gli uffici tecnici bilancio di Camera e Senato non hanno minimamente le stesse risorse e quindi purtroppo questo tipo di esercitazione spetta poi agli economisti, ma non fa parte, come dovrebbe essere, secondo me, del procedimento di esame documentata delle proposte normative di intervento nell'economia. E secondo me un grave difetto, non ci vorrebbe chissà che cosa a sanarlo, dovrebbe essere interesse di tutti e sicuramente tutelare, no, l'oggettività delle analisi rispetto agli inevitabili altrimenti influssi che vengono dalla politica, dalle maggioranze, dal governo o dalla logica di dire no a prescindere dalle opposizioni. Sta di fatto che non ce l'abbiamo, ma su questo terreno gli sgravi al sud vi dico subito il titolo e poi vi presento l'ospite. Il titolo provocatorio è sgravi al sud perché costano tanto e fanno anche danni. A firmarlo Alberto Brambilla, il presidente del Centro Studi di Itinerari Previdenziali, che ogni anno col suo, diciamo, controrapporto rispetto a quello INPS approfondisce e consente a noi tutti che seguiamo questo settore di avere delle estrapolazioni molto interessanti sul vastissimo, smisurato corpo di dati che l'INPS produce ogni anno. Grazie di essere con noi e grazie di quello che fa Alberto Brambilla. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, tentiamo di capire prima di quali sgravi stiamo parlando, prima di arrivare a snocciolare un po' di cifre, perché prima del Jobs Act e degli sgravi 2017 ci sono stati lunghissimi anni in cui la decontribuzione al sud era effettuata. Come e perché? Beh, diciamo che dagli anni 80 fino al 1994 per tutte le regioni, le 8 regioni del sud, vigevano gli sgravi contributivi totali, cioè vale a dire quando le aziende comunicavano con i loro, all'epoca si chiamava DM10M, un modulo di comunicazione, dicevano noi ti dobbiamo dare il tot per cento per contributi, ma abbiamo diritto a questo sgravio, per cui i versamenti all'istituto erano praticamente zero. Questo è andato avanti per tantissimi anni finché nel 94 la Commissione europea, all'epoca c'era il commissario Van Miert, ha dichiarato che questi erano aiuti di Stato e che andavano progressivamente eliminati. Venne fatto l'accordo tra il governo italiano e la Commissione europea e progressivamente con l'ultima appendice del Molise, che è stata l'ultima a lasciare questi sgravi, praticamente intorno al 2000-2001 di questi sgravi non c'era più nulla, ma il punto è che questi sgravi non hanno contribuito ad aumentare il livello di contribuzione, anzi quando questi sgravi progressivamente si sono ridotti, anche molti lavori che erano stati, come dire, messi in chiaro, perché tanto la contribuzione pari al 30%, quindi voleva dire avere una riduzione del costo del lavoro del 30%, ecco, anche questi pian piano si sono risolti, per cui noi abbiamo avuto una fase dal 2001 in avanti di decalage per poi vedere un miglioramento successivo. Quindi la nostra preoccupazione è che questo nuovo sgravio totale porti a non tanto far emergere ulteriore occupazione, ma semmai a approfittare di questa annualità, poi penso che in realtà sia per l'importo 500 milioni per alcune regioni e 30 per le altre, è modesto, e anche la durata di un anno credo che sarà tale da non, come dire, incentivare molto gli imprenditori a prendere delle persone per poi, come dire, lasciarle a casa l'anno successivo. Però, insomma, questo è un po' il senso storico della vicenda. Andiamo a vedere, lei poi proceda nella sua analisi prendendo i dati del 2015 ed esaminando la contribuzione nord, centro e sud. Che cosa desumiamo? Diciamo che il primo check è stato fatto, il primo controllo nel 1980, perché è stato il primo anno in cui si poteva disporre di dati che fossero realisticamente validi, e segnatamente erano dati dell'INPS. E abbiamo cominciato a fare il conto per flussi di cassa. Adesso, per farla semplice per i nostri ascoltatori, noi abbiamo preso i contributi per luogo di lavoro, cioè dove effettivamente si svolge l'attività lavorativa, e le pensioni per luogo di residenza. Sì. Abbiamo fatto questo conto dove è venuto fuori che c'era un certo differenziale. Beh, ci saremmo aspettati che dal 1980 al 2017, sono passati tanti anni, qualche cosa fosse migliorato, cioè più di qualche cosa. In realtà è migliorato poco, cioè il differenziale tra nord, centro e sud è rimasto praticamente quasi lo stesso, il che significa che questo paese è stato immobile, cioè non c'è stato un cambiamento. Sì, c'è stata una piccola variazione in più a favore del sud e leggermente meno a favore del centro, ma stiamo parlando di in totale un punto percentuale, quindi significa che in 35 anni di analisi non ci siamo spostati, e il risultato finale è che praticamente il sud versa contributi per circa 22 miliardi e riceve prestazioni per circa 43 miliardi, ma quello che dà più da pensare è che mentre al nord la contribuzione pro capite è di oltre 3.000 euro, al centro di 2.230 euro, al sud siamo fermi un terzo, a 1.000 euro, 1.063 euro. Quindi quello che ha bisogno probabilmente il sud non è tanto di sgravi che probabilmente daranno i risultati che daranno, ma c'è bisogno di una politica sicuramente di forte controllo del territorio, perché l'evasione è molto correlata alla struttura spesso della criminalità organizzata e dell'evasione fiscale, perché se poi andiamo a vedere, abbiamo fatto una riprova, i consumi, abbiamo sommato, abbiamo rapportato il PIL regionale e abbiamo cercato di vedere se la somma dei consumi intermedi e dei consumi per la produzione fossero così differenti tra nord, centro e sud, in realtà la differenza è modesta, per cui forse occorre, come dicevo, un maggiore controllo del territorio e maggiori politiche industriali per cercare di sviluppare quelle zone, se no io temo che di qui a qualche anno saremo alla stessa situazione. Ma se mi permette, il rischio grosso qual è? Mentre nel 1980 la Lombardia per ogni 100 euro che incassava di prestazione ne pagava 170, e il Piemonte era inattivo, e il Veneto era lì, e l'Emilia Romagna era inattiva, per cui con questi surplus si pagava agevolmente e il deficit complessivo della previdenza era basso, e anche regioni come la Lombardia, soprattutto il Piemonte e il Veneto hanno subito gli effetti della crisi industriale, per cui oggi il deficit aumenta perché quelle regioni non sono più in grado di finanziare le altre regioni. Non solo, i piani europei per le zone in via di sviluppo, le zone di intervento 1 e 2, intervento obiettivo, sono più spostate da circa 6 anni a questa parte verso l'est dell'Europa, i paesi che sono entrati, per cui noi abbiamo meno soldi dalle regioni produttive, meno soldi dall'Europa, e questa è la situazione. Allora, torniamo tra un minuto e rivediamo la questione, ripeto, badate bene a questi rapporti, perché se in termini pro capite si paga di contributi in media oltre 3.000 euro l'anno e invece il sud ne paga 1.000, capite che c'è qualcosa che non va, ma che non va anche perché, stante che questa differenza non è corrisposta nei consumi, c'è un'enorme indicazione che viene su ma come diavolo è possibile, quindi c'è anche un problema di evasione ed elusione, visti i milioni di contribuenti che non presentano una dichiarazione dei redditi. Ripartiamo di qua, perché anche questo ha a che vedere poi con cosa coprono gli sgravi aggiuntivi, visto che questa è la lezione storica. Tra un minuto intanto traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati con Alberto Brambilla, il presidente del Centro Studi di Trinity Previdenziale. Abbiamo visto le serie storiche della decontribuzione del Sud, che cosa hanno prodotto. Hanno prodotto un grande effetto finestra d'opportunità, che però non si è consolidato poi nel tempo, quando la decontribuzione è venuta meno dopo il giudizio, gradualmente dopo il giudizio dell'Unione Europea sul fatto che fosse aiuti di Stato, ma nel frattempo gli differenziali rispetto alle prestazioni ottenute rispetto al contribuito sono enormi, 1-3 tra nord e sud. Il differenziale positivo attraverso cui si finanziavano le prestazioni delle regioni del nord non regge più, e quindi il deficit complessivo del sistema cresce. A fronte di tutto questo, un altro pezzo di ragionamento, dicevamo, è quello della trasparenza, perché in altre parole insistere coi soli sgravi è come un segnale a dire, beh, tutto sommato continuiamo a non vedere l'opacità dietro la quale il dato della contribuzione non torna con quello dei consumi, quindi c'è un grande problema di evasione ed elusione, concentrato più in una parte d'Italia che altrove. E però, visto che qui l'efficacia delle azioni fino a questo momento propagandate di lotta all'evasione contributiva e dei redditi, perché le due cose vanno insieme qua, non sembrano tanto smuovere il problema, qual è l'alternativa verso la quale poi lei conduce il suo filo di discorso nell'articolo, Brambilla? Beh, diciamo che sostanzialmente una politica industriale dovrebbe creare le precondizioni infrastrutturali, quindi, per dirla in modo semplice, strade, trasporti, telecomunicazioni, cioè rendere la regione da un lato appetibile e che possa poi distribuire le merci che produce, dall'altra una regione sicura, una regione che, nella quale sia possibile fare delle attività che siano alla luce del sole in tutta trasparenza. Se ci sono queste due precondizioni, poi c'è una terza precondizione che è il credito d'imposta. Non si possono finanziare aziende decotte che si mettono lì soltanto per beneficiare di fondi strutturali o di fondi che vengono erogati senza poi avere l'obbligo della restituzione, i fondi perduti di una volta, ma bisogna lavorare sul credito d'imposta. Allora a questo punto uno dice, benissimo, e un'azienda che occupa X dipendenti può beneficiare di un credito d'imposta sia sull'imposta relativa alle società, all'IRES, sia l'imposta IRAP che può essere ulteriormente ridotta, ma diciamo che questo è, questa è un'azione che va a premiare un'attività che funziona, quindi questo è un po' il meccanismo, che non è semplicissimo in un paese complesso come il nostro, ma fatto diversamente. Noi ci troviamo, ma questo non vale solo per Questo ragionamento vale non solo per gli sgravi al sud, ma vale anche per il Jobs Act. Ecco, io lì avrei preferito anche lì il credito d'imposta. Perché? Perché la decontribuzione intanto è una cosa abbastanza comoda dal punto di vista delle regole contabili di bilancio. Perché di fatto non entrano questi quattrini, entrano in modo figurativo, perché queste persone comunque hanno l'accredito, e poi con le varie leggi, una volta si chiamava legge di bilancio, poi di finanziaria, poi di stabilità, poi bilancio. Di bilancio, ecco, di fatto si fanno gli stanziamenti. Noi oggi su una quantità enorme, diciamo, di miliardi, ma abbiamo una ventina di miliardi che sono il costo di prestazioni non sostenute da contribuzione effettiva ma da contributi figurativi. Allora, da un lato il costo, dall'altro è un po' anche diseducativa, perché dire alle giovani generazioni o comunque alla gente: guarda, io pur di favorire l'occupazione non pagarmi i contributi. Soprattutto oggi che c'è il dopo metodo Ladini. Di calcolo contributivo, bravissimo, il metodo di calcolo contributivo per tutti. Insomma, noi stiamo facendo una campagna informativa, guarda che non è più come una volta che potevi versare un euro per 30 anni, poi versavi 1000 euro gli ultimi 5 anni, avevi il 70% di 1000 euro e ti eri fatta la vecchiaia. No, oggi stiamo parlando e dicendo dovete versare fin dal primo anno, perché anzi quei contributi che versate nei primi anni di attività lavorativa sono quelli più pesanti, perché vengono rivalutati per 30, 35, 40 anni. Eppure, eppure gli diamo un messaggio con gli sgravi completamente opposto, perché gli diciamo: voi non li pagate i contributi, poi tanto arriverà una legge di bilancio sotto elezioni che inevitabilmente vi darà però assegni che non sono pari al montante ricalcolato per i coefficienti del regime contributivo, è vero o no? Sì, diciamo che più che altro, diciamo che poi ai fini contabili, comunque sia, che li abbiano pagati o che non li abbiano pagati, la contribuzione è come se li avessero pagati. Ho capito, la differenza è che oggi 20 miliardi escono fuori dalla fiscalità generale, cioè dalle tasche del resto dei contribuenti, che non è proprio indifferente. No, non è proprio una cosa minima. E quindi da un lato c'è questo, e dall'altro è che proprio tutta l'attività educativa, per dire, perché questo è successo anche per il TFR in busta paga, poi fortunatamente c'è stata un'accoglienza prossima allo zero, però anche lì, dopo una campagna per dire mettete da parte il vostro TFR, cerchiamo di farla, anziché puntare, stiamo sostenendo da più anni che l'uso del mettere il TFR nei fondi pensione dovrebbe essere poi di nuovo riutilizzato per l'economia reale del paese, certo. Quindi per, come dire, finanziare le imprese, e oltretutto c'era prima il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che erogavano TFR a favore dei fondi pensione, non c'è più nulla, per cui insomma alla fine corriamo doppi rischi, cioè quello di non educare bene le persone e dall'altra parte, dal punto di vista industriale, sottrarre TFR che è circolante interno alle imprese significa in un certo senso mettere ulteriormente in difficoltà le imprese in un momento in cui il credito non è proprio così facile. Quindi sono provvedimenti che da un lato hanno, come diceva lei all'inizio di trasmissione, una memoria storica veramente modesta, perché bastava andare da pesce rosso, sì. I risultati di 15 anni di sgravi contributivi per capire che non si era spostato di nulla l'occupazione al sud, anzi addirittura è andata un po' in decalage. E quindi bastava quello, e dall'altra insomma, se stiamo facendo tutti gli sforzi per educare le giovani generazioni e dirgli guardate che quando dite che la pensione non la prenderemo mai, non è vero, perché la prenderete, e la prenderete anche buona compatibilmente con i livelli di reddito che avete. Ovviamente, però gli diamo dei segnali contrapposti. Allora, viva la ragionevolezza e la preparazione e anche la dedizione che Alberto Brambilla dà con tutti questi studi che secondo me dovrebbero essere pubblicizzati nel senso incardinati nel procedimento legislativo. Ma siamo in Italia, grazie a lui, continuate con la 24, appuntamento con Alessandro Mina domani alle 8:20, attenti alle 2 come sempre.